Questa inchiesta in realtà parte da un lavoro di Lost in Europe fatto sulla tratta delle donne nigeriane in Europa. Andando nei centri di accoglienza in vari paesi abbiamo iniziato ad avere alcune segnalazioni, cioè alcune donne ci dicevano: io sono passata dall'Italia, perché naturalmente insomma il 90% passa dall'Italia nel suo viaggio di migrazione, e ad un certo punto l'operatore mi ha detto che mi toglievano il bambino, oppure so che in Italia ti portano via i figli. E abbiamo iniziato a fare un po' di domande sia operatori che ad alcuni giudici minorili, senza in realtà avere riscontri all'inizio, no? Quindi alcuni operatori ci dicevano: no, vabbè, sarà un modo di ricattare in maniera goffa e anche violenta, ovviamente, queste donne, perché non fanno quello che il centro vuole, insomma. Dopodiché, siccome uno dei nostri colleghi aveva parlato con un'altra donna a Palermo e lei gli aveva detto: ugualmente, io ho avuto molta paura mentre ero in un centro di accoglienza, perché davo da mangiare con le mani, un po' forzando mio figlio, e sapevo chi era illegale. Questo ovviamente sono tutte poi sensazioni che derivano anche dalla mancanza evidentemente anche di strumenti di mediazione culturale adeguati di chi accoglie. Però ho visto due mie amiche nello stesso centro, in cui hanno tolto i figli in maniera abbastanza improvvisa, e quindi abbiamo iniziato a chiamare avvocati che si occupano di immigrazione, quindi l'ARGI, e l'ARGI ci ha detto: guarda, è appena uscita questa sentenza. Il 1 aprile la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per aver portato a termine un'adozione a rischio giuridico in maniera molto frettolosa, interrompendo i contatti tra la madre e le due figlie, mentre la madre non so, aveva fatto ricorso e la sentenza si sarebbe potuta ribaltare. E abbiamo capito che di casi come questi e di casi di sottrazione di minori da parte di un sistema molto cieco per quanto riguarda la fragilità e la vulnerabilità di donne che appunto vengono a percorsi allucinanti e che hanno diversi metri effettivamente culturali dal punto di vista della maternità rispetto ai nostri, erano tanti, decine di casi. Il giudice o il servizio sociale ha un potere allucinante, ha un potere assoluto su queste donne, perché entrano in un circuito abbastanza inesorabile, cioè dove insomma c'è una specie di schema, di sistema, c'è una segnalazione che può essere veramente per una cosa banale, dal centro di accoglienza dove tu litighi con le altre ospiti e quindi litighi poi anche con gli ospiti del centro di accoglienza, e allora fanno una segnalazione alla procura minorile, dicono: la donna non è collaborativa, il bambino è introverso, si teme per lo sviluppo psicofisico del bambino, suggeriamo appunto una misura cautelare. La misura cautelare è la sospensione della potestà genitoriale o della responsabilità genitoriale, come si dice oggi, e diciamo la sistemazione del figlio in una casa famiglia, e la madre ha diritto di visita. Ovviamente si crea subito una frattura, uno fra la madre e il sistema, che non capisce perché la separano dal figlio, e quindi l'ostilità ovviamente aumenta. Questo diventa un vortice, perché poi ogni volta che vai alla visita, appunto, magari sei all'inizio sei collaborativa, poi dopo, siccome durano anni, dopo anni sei stanca, allora non gioca più con il bambino come all'inizio, è pensierosa, e tutto questo diventa una relazione che porta lentamente alla perdita del bambino. E se il bambino è abbastanza piccolo, è molto facile che diventi adottabile, e ovviamente se è piccolo è facile che trovi una famiglia che lo vuole adottare, se è più grande va in casa famiglia. Questo nonostante queste madri non è che lo abbandonino il figlio, che non lo vogliono, che non l'abbiano voluto, che non l'abbiano curato, ma che vengono ritenute non adeguate. Tu prima facevi riferimento anche al tema della mediazione culturale, può essere, come dire, ti sei fatta l'idea che possa essere una delle cause che poi apre questi procedimenti? Sì, sicuramente c'è una mancanza o di preparazione degli operatori o di presenza di mediatori culturali in alcuni luoghi strategici, come penso agli ospedali. Non ci sono nei tribunali o in questo tipo di appunto visite, perché poi è che il momento in cui si decide se la madre effettivamente ha capacità o no, e quindi si apre lo stato di abbandono e l'adottabilità dei figli meglio. È spesso un test condotti da psichiatri, molto spesso senza mediazione. Ci vuole almeno un etnopsicologo, un etnopsichiatra, invece spesso fanno dei test che loro non capiscono. E lo vedi, appunto, lo vedi nella relazione e sembra una scusa. Insomma, comunque non gli viene fatto altro, non gli viene fatto nessun altro test. La Corte Europea però, appunto, ha detto che sostanzialmente questi procedimenti sono illegittimi. Non tutto il procedimento, ha detto alcune cose. Ha detto che non si può dare in adozione, quindi interrompere il rapporto tra madre e figli prima della fine del processo dello stato di abbandono, che ha, come tutti i processi, 3 gradi di giudizio, no? Sulla parte giuridica e di modalità di adozione si può pensare ad altre cose, ovvero all'adozione mite. Quindi la Corte ha detto che potevate mettere le bambine nelle 2 famiglie, però continuare a farle incontrare con la madre. Si potevano trovare altre vie, non quella dell'interruzione del rapporto, dell'interruzione della sorellanza, perché in questo caso erano 2 sorelle che quindi si sono viste separate, che è una cosa che normalmente non si dovrebbe fare, e riportare la madre a incontrare le figlie. Ha anche detto che si vede dal processo che il sistema non ha riconosciuto, 1, la vulnerabilità della madre che è stata vittima di tratta, 2, la diversa modalità di essere madre, visto appunto la sua nazionalità nigeriana, e 3, appunto, il fatto che le 2 sorelle erano state separate, quindi si era interrotto ulteriormente il legame familiare. Magari non nel caso della sentenza, ma anche in altri casi, purtroppo c'è un giudizio anche sulla vittima di tratta. Spesso non si riesce a fare quel passaggio, per cui non si riesce a capire che lì c'è una persona che ha bisogno di aiuto, anche la madre, cioè non si può prendere solo il figlio e salvare il figlio, fra virgolette, e lasciare per strada come chi l'ha concepito e partorito. E non solo perché è ingiusto verso, diciamo, la madre, neanche per il bambino, separarsi dalla madre e sentirsi abbandonato ha delle conseguenze anche sui figli, che aiutare persone ai margini, diverse da noi culturalmente, traumatizzate, magari ricattate, non è facile. Diciamo, l'accoglienza vorrebbe controllare, vorrebbe che il migrante fosse come piace a noi, no? Quindi è un lavoro enorme che però bisogna fare, perché non si possono togliere i figli alle madri perché sono in difficoltà.